a ciascuno il suo. Quel grazie, ma quanto deve durare? 30 anni? Il fatto che non ci hanno fatto stare nei container, ma ci vorranno tenere 50 anni, cioè non ci faranno mai rientrare dentro le case. Rimbomba nella piazza priva di vita la domanda di questa signora. Rimbomba nel silenzio di strade deserte la rabbia di chi da 4 anni è lontano dalla sua casa e ancora non ha una prospettiva da guardare né un conto alla rovescia su cui contare. Rimbombano davanti alle finestre sbarrate del centro storico dell'Aquila gli interrogativi di un'intera città che a 4 anni dal terremoto che uccise 309 persone, dopo la commozione e la solidarietà internazionale, dopo la reazione collettiva, ora teme di morire di rassegnazione e di abbandono, mentre tra i giovani dilaga l'alcol e negli altri la depressione. Pieno centro storico, la casa deve subire sì dei rafforzamenti eccetera, però non è da abbattere, quindi si potrebbe partire subito, abbiamo presentato il progetto completo e ancora non è stato esaminato. Ma noi non siamo neanche sicuri che partano nel 2014. Non sappiamo quale sarà il tempo perché ancora non abbiamo la risposta. Voi quando avete presentato domanda? Le ultime, era entro il 31 agosto, ma non so se era il 2011, 2010. 2 anni senza risposta. La mia casa è ancora là, è sospesa. Si dice che l'Aquila è tutta sistemata, lei si faccia un bel giro qua, l'ha fatto, ed è tremendo. Noi ci passiamo, noi lavoriamo a Via Strinella qui sotto, veniamo tutti i giorni perché ci sentiamo di dover stare vicino alla nostra città. Di passare un po' qui per questo centro che è sì, fantasma. E lì ai quattro cantoni, lì sotto è pure chiuso. È doloroso vedere tutto questo, è doloroso. Come andare a vedere un morto. E come in un'unica visita di condoglianza, così piano si cammina nel centro storico di una città popolata solo da fantasmi. Sottovoce si parla, come per rispetto verso un morto. Nel silenzio di strade trasformate in un unico tunnel di tubi innocenti, ora solo più arrugginiti di 4 anni fa, tra puntellature e macerie, tra finestre sbarrate o case tuttora sventrate, dove i passi fanno rumore come le gocce dell'acqua e come un richiamo per viandanti smarriti, l'unico ristorante riaperto da subito diffonde la sera note malinconiche, perfetta colonna sonora all'addio di sempre più aquilani, in 6.000 quelli già andati via solo l'anno scorso e molti di più quelli che soprattutto tra i giovani o le nuove coppie lo stanno prendendo in considerazione. Alla fine è obbligatorio un po', diciamo, con prospettive di ce n'erano già poche prima, adesso proprio nulle. Cioè dopo il terremoto voi avete chiara anche un po' l'idea del fatto che già le difficoltà economiche che ci sono un po' in tutta Italia, nei centri piccoli, quelli del centro-sud soprattutto, adesso sono ancora più forti, no? Certo, io calcolo che studio architettura, che sembra un paradosso, ma so che qua non ci tornerò mai a fare il mio lavoro fondamentalmente. Se subito dopo il terremoto noi comunque abbiamo detto non andremo via dall'Aquila perché siamo legati, vogliamo vedere come andranno a finire le cose, non possiamo abbandonare la nostra città adesso che ci si rende conto che comunque tutto è in stallo. Questo sentimento viene un po' a mancare, quindi inizi a pensare più a te stesso, alla tua vita, al tuo futuro, perché sai che comunque ci vorranno almeno 10-15 anni. Attraversare il centro storico dell'Aquila è come entrare in una di quelle cliniche per persone in coma. Il tempo è fermo e tutto sembra sospeso. E proprio come quei parenti di un malato che aspettano dai bip di un monitor il segnale di una ripresa, così gli ex residenti di questo centro si fermano davanti ai pochissimi cantieri partiti perché facilitati dalla sovrintendenza ai beni culturali, come di fronte ad un miraggio, all'unico segno di vita in un deserto di abbandono. Sono dei professionisti che sono andati via, faccio il professionista, conosco i professionisti. Quindi avvocati, commercialisti. Certo. Sono andati sulla costa, qualcuno a Roma, insomma, si perdono i figli della città, per cui ci sarà un periodo probabilmente di buco, perché anche le nuove generazioni, questi ragazzi che stanno crescendo senza punti di riferimento, senza poste, cioè una città come l'Aquila, era una città che viveva il centro storico, il cuore era qua. La sera cercano di trovare posti, bar dove vivere, i ragazzi di 18 anni, 16 anni, 20 anni. Usciranno per studiare fuori e probabilmente non rientreranno. Questo. E sono infatti soprattutto giovani o nuove coppie, quelli che hanno già lasciato questa città, che ora solo targhe impolverate, iscrizioni frammentarie o grandi impalcature raccontano per quello che era prima del 6 aprile 2009, con il suo teatro, la sua musica, le sue chiese settecentesche e a volte anche più antiche, con la sua successione di negozi eleganti, case di studenti, ritrovi universitari, con la sua vita, insomma, ora in un coma destinato a finire nelle migliori previsioni solo per il decimo anniversario, solo nel 2019, stando al cronoprogramma appena diffuso dall'amministrazione comunale. E molti neanche davvero ci credono che così sarà. Per questo sempre più spesso le valigie per viaggi senza ritorno sono tirate fuori dalle casette lontane anche 10 chilometri dal centro, dove tuttora vivono 23.000 aquilani. Per questo il sindaco Massimo Cialente non può che ammettere che se non si parte subito davvero con la ricostruzione, l'Aquila, dice, è destinata a morire, e la medicina per lui sono 7 miliardi di euro in totale. 7 complessivamente, però proprio per ricostruire tutto. Noi abbiamo offerto anche un cronoprogramma al governo che prevede per quest'anno altri 800 milioni, dopodiché 1 miliardo l'anno, e noi per il 2018 abbiamo ricostruito pressoché tutto. Siamo arrivati al quarto anniversario, la gente sta peggio, come stava dicendo Vanessa, i cittadini non ce la fanno più, c'è un crollo dell'aspettativa, c'è uno scoramento, una disillusione, c'è una rabbia, c'è una disperazione, anche perché, guardi, vivere all'Aquila è impossibile, perché l'Aquila non c'è più. Siamo in una situazione di vite sospese, l'unica cosa è che anziché stare nei container si sta in progetti case che hanno anche tanti problemi, fra l'altro sono piccolissimi, sono le persone. Stanno anche cadendo, raccontano molti, alcuni hanno dei problemi interni forti. Sì, fra l'altro adesso è scoppiata un'altra vicenda relativa alla realizzazione dei mappe, moduli prefabbricati in legno, quindi insomma, se noi saremo nelle condizioni di far ripartire la città, allora altri 3 anni gli aquilani ne accettano, altrimenti succederà in modo sempre più travolgente quello che sta succedendo. Adesso noi cominciamo ad avere l'abbandono della città da parte degli aquilani, soprattutto i giovani coppie che non ce la fanno più, non vedono prospettive di vita. Questo vuol dire che la città muore. Adesso siamo in condizione di partire. L'unica cosa, bisogna è benzina. Io altrimenti mi ritroverò sindaco di una città, se no di 40.000 abitanti, perché se ne stanno andando. Se non c'è un'inversione di rotta, nel giro di 3 anni la popolazione è, rispetto adesso, quanto? Noi abbiamo perso nell'ultimo anno quasi 6.000 persone. Nel 2016 se ne saranno andati quasi tutti. Qui rimarranno i vecchi, i dipendenti pubblici. Guardi, questo è un problema molto serio. Se questi soldi non arrivano, tutto quello che si è fatto finora non è servito a nulla. Nulla. Il governo d'Italia deciderà che l'Aquila può anche morire. Se questa cosa succede, io l'ho detto, noi leviamo il tricolore, chiederò al prefetto di andarsene, vogliamo essere lasciati in pace, perché non è possibile che noi veniamo abbandonati. La città che molla, la vedi nelle facce della gente, nella rassegnazione che ha preso il posto della battaglia, nei sospiri che hanno sostituito le proteste e le carriole di chi un tempo scendeva in strada per reclamare la ricostruzione dopo la sistemazione d'emergenza. La incontri, questa città che molla, negli sguardi tristi dei vecchi, seduti ai giardinetti del progetto case, condomini dormitorio sparsi e lontani chilometri dai punti di ritrovo di un tempo. La città che molla è nella mano di chi ha sradicato pure le piante del monumento davanti alla casa dello studente, tomba di 8 giovani e stazione obbligatoria della via Crucis dell'Aquila, un crollo per cui 4 persone sono state già condannate in primo grado. La città che molla è soprattutto poi nella sincerità, senza entusiasmo, dei giovani che ora ammettono la sera non c'è nient'altro da fare che bere e ubriacarsi. La situazione è questa qui che vedi, quindi i locali sono pochi, non puoi fare altro fondamentalmente che bere, non è che ci sta nessun altro tipo di intrattenimento o svago, diciamo. Ma in questi 4 anni in qualche modo è migliorato, è cambiato qualcosa, è rimasto tutto uguale? È possibile, è peggiorato, guarda, rispetto a 2 anni fa è anche peggiorata la situazione. Perché mentre 2 anni fa qui tanti posti avevano riaperto con la storia dell'agibilità parziale, adesso che magari hanno iniziato a chiudere varie aree o strade perché hanno iniziato i lavori, chiaramente la situazione si è peggiorata. Cioè sembra ancora di più una città vuota, Sì. tantissimo. Molti posti che vedi qua magari non riaprono per niente. Lì c'era un locale che era sempre strapienissimo, che ha chiuso un paio di mesi fa. Come vedi la città è ancora vuota, quindi insomma sono passati 4 anni e 4 anni sono anche tanti. Ma il problema secondo me non tanto sulle strutture, ma quello in cui soffriamo oggi, lo dico come uomo di scuola, è il problema proprio della socializzazione da parte dei ragazzi e da parte della gente. Non c'è più socializzazione, non si ci incontra più, c'è un alto livello di consumo di alcol e anche di sostanze stupefacenti che si sta alzando piano piano, dove questa città prima era un'isola felice per quanto riguardava queste situazioni. Quindi l'hanno raccontato in tanti questa cosa, poi chiaramente per chi lavora all'interno della scuola ha una percezione diretta e immediata, quindi voi ritenete che sia collegato all'effetto terremoto e a questa disgregazione della rete sociale? Ma certamente sì, perché considerando che non esiste più una città, non c'è più un punto di ritrovo, non c'è più un punto di aggregazione, chiaramente questo è un fatto che ci rattrista parecchio, perché i ragazzi sono veramente disorientati. Sono passati 4 anni per realizzare un cronoprogramma, spero che venga rispettato. Purtroppo ci sta un disagio generale e questo si ripercuote specialmente ai giovani, che ultimamente si è visto che ci sta un aumento di violenza, ma di persone che si danno all'alcol, ma a livelli preoccupanti. Per noia, perché non fanno, per quale ragione? Perché non hanno punti di riferimento, perché non hanno nulla da fare. Per quello che sta dicendo lei, per noia, credo. E poi, sinceramente, parliamo di una popolazione che nel bene e nel male in questi 4 anni ha subito e continua a subire. Anche a lei è capitato quasi di arrivare alle mani con una ragazzina ubriaca? Sì, con un ragazzino. Gli ho detto, insomma, che non doveva fare una cosa in mezzo alla strada e per poco non ci siamo trovati a menarci. Lo riporta preoccupato Antonello Passacantando, professore. Lo racconta Savoridis, maître del primo e tuttora tra i pochissimi ristoranti del centro storico dell'Aquila, riaperto tra mille difficoltà dopo il terremoto e ora con ancora più incertezze. Incertezze e difficoltà che ogni giorno sperimenta chi cerca di portare avanti le pratiche per la propria casa. E il primo scoglio, come sentiremo nella seconda parte di A ciascuno il suo, è districarsi nel rebus dell'ufficio ricostruzione tra orari diversi, mille burocrazie e un avviso. 4 ore di apertura al pubblico alla settimana. A ciascuno il suo. Sigilli alle case crollate, sigilli pure a quelle provvisorie. Nel silenzio di un centro popolato solo da fantasmi è come la caduta dell'ennesima pietra, l'ultima inchiesta intorno al terremoto, quasi attesa qui all'Aquila, dove a 4 anni dal sisma che fece 309 morti, 23.000 persone non sono ancora tornate nelle loro abitazioni e ora alcune si vedono anche sequestrare quelle d'emergenza. 7 i cosiddetti MAP, moduli abitativi provvisori, bloccati da ultimo dalla magistratura, che aveva già messo sotto accusa pure le piattaforme antisismiche per una storia di corruzione di un funzionario della protezione civile, di occhi chiusi sui cantieri e di lavori fatti male dagli imprenditori, con disagi continui per la gente. Lo scrive ora il giudice per le indagini preliminari, che ha disposto arresti e interdizioni per le ditte, lo confermano soprattutto gli abitanti. Io non mi meraviglio che le case, che il progetto case stia così adesso, perché quella è stata una pubblicità mediatica, politica, era una campagna elettorale per chi governava allora. Quelli sono container che invece di metterli per terra li hanno messi sopra le piattaforme, che costano tanto. Sono quelle piattaforme che poi si è sentito anche che non sono state fatte, non sono buone neanche le piattaforme. Hanno evitato all'inizio, diciamo, quelle situazioni di container. Sì, ma questo. No, no, quelli pagare. Sono container, quelli che stanno sulle piattaforme. Io non penso che un terremotato aveva bisogno della lavastoviglie o aveva bisogno del televisore a plasma e di tutto quell'altro. Quindi anche gli affitti sono costosi. Gli affitti sono. Sì, sì. 50 metri quadri anche 700 euro. Cioè, uno come fa? Anche se è molto in là in tempo, l'amministrazione dice tra al 10° anniversario del terremoto contiamo che la città sia ricostruita. Non ci contiamo. Non ci contiamo perché vedi dall'inizio. Non mi meraviglia niente vedere quelle cose, perché mi fa solo schifo. Cioè, per carità. Perché tanta la corruzione, tanta. Il conforto che ha portato. E la speculazione. La speculazione, ma sia di fuori che da dentro. Cioè, gente che magari stavo proprio dicendo e mi faccio rifare questo. Cioè, il terremoto ti ha creato dei danni. lo Stato deve dare i soldi per quei danni, non che tu pensi di rifare le ditte, gli appalti, subappalti. Poteva essere condotto diversamente questa strage di questo povero territorio, che ormai non sarà più lo stesso. Nei MAP che ci siano i miei, che hanno dovuto aspettare, era un progetto per portatori di handicap, quello, la prima cosa era il bagno rotto, appena entrati, cioè hanno dovuto rifare il pavimento, adesso cominciano a piovere, ci sono perdite, sono costruzioni fatte di corsa. Pavimenti che si sono alzati, i tubi che perdono, i balconi che infiltrano l'acqua e escono al solaio delle case di sotto. Antonietta Centofanti, quarto anniversario del terremoto dall'Aquila, le commemorazioni, il dolore ma anche la protesta di molti aquilani per una ricostruzione che soprattutto nel centro stenta a partire. Chiaramente per chi come lei è portavoce delle vittime, dei familiari delle vittime, in particolar modo di quelle della casa dello studente, il primo pensiero va alle vittime. Un anniversario di commemorazione, ma forse è reso ancora più doloroso dai tanti problemi che ancora ci sono? Sì, sicuramente, perché cioè, si ritorna in quella notte a rivivere la terribile notte di 4 anni fa, no? Dal momento del boato, alla ricerca poi con il cellulare dei propri cari, alle risposte che mancavano, fino poi alla conferma che era tutto finito, che erano stati inghiottiti dalle macerie. Ci sono state le prime sentenze anche per quei crolli, poi contemporaneamente ci sono state anche ultima inchieste per irregolarità anche nelle costruzioni delle case del post-sisma. Significa che l'Aquila paradossalmente e tragicamente è il paradigma della illegalità. Giorni fa sono stati rinviati a giudizio Dolce e Calvi per aver fornito nei piani nel progetto case delle piastre antisismiche che non sono antisismiche. Come si vivono queste vicende giudiziarie, pur con tutti i loro dubbi, le loro incertezze, quando si è ancora in una situazione di così forte disagio, quando il centro della città è ancora vuoto e quando si ricordano e si piangono 309 vittime? Intanto usati, no? Che è una cosa terribile, no? Sei usato dentro la precarietà, dentro le lacerazioni, dentro le macerie, è terribile, no? Ogni mattina apriamo i giornali e c'è qualcosa che non funziona e questo ci precipita nella solitudine sostanzialmente. È necessario a questo punto, anziché mettere i remi in barca come molti stanno facendo, schiacciati anche dalla depressione, perché ormai la depressione ha raggiunto dei livelli inquietanti, no? Bisogna invece tirare fuori la grinta e rivendicare dei diritti, no? Anche il diritto a riavere una città. Qua ci sono problemi drammatici per il lavoro. Nel cantiere più grande d'Europa, il settore che è più in crisi è l'edilizia. Troppi parametri che non quadrano, no? È l'incertezza quella che più colpisce gli aquilani, è il limbo dell'attesa e della mancanza di risposte certe che fa considerare ora auspicabile pure la prospettiva tracciata finalmente dall'amministrazione di completare la ricostruzione al 10° anniversario del sisma. Così si capisce come una svolta sia stato accolto questo cronoprogramma che esplicitamente ad alcuni dice che i propri lavori partiranno solo nei prossimi anni, dopo 4 anni. Eppure tantissime domande da tempo giacciono sulle scrivanie dell'ufficio ricostruzione e tantissime delle 9.426 già presentate per le case non troppo danneggiate o delle 7.707 invece di quelle da rifare non hanno ancora avuto risposte. E pur volendo nessuno potrebbe neanche in autonomia cominciare i propri lavori dopo aver attraversato l'iter infinito della burocrazia, dei 1.000 progetti, delle altrettante autorizzazioni e anche del rebus degli orari dell'ufficio ricostruzione. 3 piani con funzioni diverse, giorni di apertura differenti e un interrogativo. In una città tutta da rifare, al 3° piano l'apertura al pubblico possibile che sia solo per 4 ore in totale, spalmate su 2 giorni alla settimana? Possibile? Alla fine lo toglierò quel cartello, perché invece siamo qui sempre, si difende il responsabile, l'architetto Chiara Saraceno. Intanto l'ufficio pianificazione è un ufficio a minor concorso di pubblico rispetto a quello della ricostruzione privata. L'ufficio è praticamente sempre aperto. È vero, esistono degli orari di chiusura che consentono tra l'altro a chi lavora a portare avanti atti di pianificazione di una certa complessità. Anche per questo gli aquilani ora sono arrabbiati, come per il mercato traslocato in un mega parcheggio lontano, come per l'obbligo di dover stare stare sempre in una macchina per fare qualsiasi cosa, perché tutto ora è difficile in una città in coma da 4 anni, perché l'esasperazione di chi non ha risposto e né prospettive è massima, e il timore che neppure un programma che rimanda a 10 anni per la ricostruzione possa essere rispettato. È la sensazione di una barca alla deriva, quella denunciata dalle facce di chi vive in questa città fantasma, che morirà se non arrivano 7 miliardi, e la minaccia del sindaco Massimo Cialente, che pensa pure di chiedere aiuto a Grillo, che si rammarica di non aver messo bombe, ci dice, e che nel frattempo però è tornato anche a fare il medico per il mio TFR, ammette. Noi abbiamo offerto anche un cronoprogramma al governo per quest'anno, altri 800 milioni, dopodiché 1 miliardo l'anno, e noi per il 2018 abbiamo ricostruito pressoché tutto. Voi avete bisogno della certezza dei soldi, le dice. Nell'immaginario di tutti c'è che dopo il terremoto dell'Aquila c'è stata una corsa alla solidarietà. Allora, i soldi fino adesso avuti, che fine hanno fatto? Innanzitutto, affrontare le spese d'emergenza è stata una cosa impressionante. Poi c'è stata la scelta del governo di fare il piano casa, che sono costate molto. Oltre 1,5 miliardi se n'è andato per assistere 80.000 persone. Solo di autonoma sistemazione ogni mese se ne vanno. Adesso che l'ha preso in mano il comune e l'ha dimezzato, se ne vanno 1,6 milioni al mese. Con contributo fino a 10.000 euro abbiamo riparato le cosiddette case A, erano non danneggiate strutturalmente. Poi abbiamo riparato le BLC, diciamo un danno medio. Sono state complessivamente 9.426 alloggi. Poi ci sono le periferie con le case E. Le case E sono quelle che stiamo demolendo oppure sono crollate. Lì abbiamo perso un sacco di tempo. Poi c'è il centro storico. Le vostre previsioni di spese tra edilizia privata e edilizia pubblica vi fanno dire che vi servono almeno 7 miliardi. Noi chiediamo di ripetere quello che è stato fatto all'inizio con la Cassa Depositi e Prestiti. È un mutuo che si paga a 20 anni e che lo Stato restituisce. Questo meccanismo ha funzionato talmente bene che è stato utilizzato per l'Emilia Romagna. Il governo Monti si è preoccupato più dell'Emilia di voi? Sì, noi siamo un po' in credito col governo. Indubbiamente il governo Berlusconi, l'emergenza, lo champagne, però al di là di questo poi è mancato nella fase in cui era necessario pensare a come ricostruire, che era una tassa di scopo. Adesso dei soldi che stanno arrivando della famosa delibera CIPES, io ho già finito. Sindaco, ma secondo voi, voi rischiate di essere ulteriormente danneggiati da questa crisi politica istituzionale italiana? Sto vivendo la situazione che vivevo nell'autunno del 2011, quando io chiamavo la persona che è stata più vicina a noi, il sottosegretario dottor Letta, e mi diceva: sindaco, io capisco, ma non so se noi domani ci saremo ancora. In questa situazione un appello anche ai grillini. Io ho pensato anche di scrivere a Grillo, quando Grillo non si sta preoccupando del problema di un paese allo sbando. Figuriamoci se Grillo non credo che prenderebbe così la responsabilità per risolvere l'acqua. Stando al vostro cronoprogramma, c'è anche gente che si vedrà i lavori della propria casa cominciare tra qualche anno, e chiaramente quelle persone lì, alcune del centro ma soprattutto delle periferie, sono particolarmente arrabbiate, perché 4 anni sono passati e sanno già che come minimo ne serviranno altrettanti per vedere l'inizio dei propri lavori. Lei a questa gente che cosa risponde? Che non possiamo far partire tutti insieme perché lo Stato non ce l'ha questi soldi. Però nel 2018 tu rientri, perché tu sei quello che vive in un'area che rispetto ad altri ha avuto meno danni. C'è un cronoprogramma, ma non c'è un progetto preciso su come si intende ricostruire, quindi anche per questo i finanziamenti stentano a partire. Questi anni passati, molti dicono, sono anni che sono stati un po' buttati. Sono stati buttati da un punto di vista normativo e burocratico. Il centro storico va rifatto, sono palazzi, sono aggregati di palazzi del 700, del 600. Abbiamo identificato delle aree di trasformazione. Però per il centro storico 4 anni sono passati e adesso qualcosa si sta muovendo. Noi saremmo potuti partire. Il commissario Chiodi con il capo della struttura tecnica di missione l'hanno impedito, perché volevano il piano di ricostruzione. Quelle poche edifici partiti, ne abbiamo in partenza 99 alloggi, le abbiamo fatte con un piccolo imbroglio positivo per scavalcare il commissario, che abbiamo fatti fare alla sovrintendenza. E l'amministrazione, responsabilità in questi 4 anni rispetto al centro? Ma sì, forse non aver messo le bombe. Tornerò ancora all'Aquila, questa è una promessa. Tornerò nella città che teme di morire ora di abbandono e rassegnazione. Molti si chiedono se quella corsa ad evitare i container all'inizio non sia stata piuttosto un boomerang. E voi cosa ne pensate? Scrivetelo sulla pagina Facebook di Storiacce o su Twitter. L'account è Raf Calandra, l'hashtag a ciascuno il suo. Per riascoltare la puntata il sito è radio24.it, dove trovate anche tante foto. Ciao a tutti, al prossimo weekend.